Perché, guarda, una volta che loro dicono che sui documenti ufficiali scrivono che è stata consegnata la raccomandata, come fai a dimostrare il contrario? Loro dicono, lui l'ha ricevuta, la stracciata, cioè noi l'abbiamo, è una cosa un po' delicata, mi. Cioè, o devono fare tutti una cosiddetta class action, cioè si devono riunire e fare una denuncia unica, però li devono sotterrare questi qua di questa posta privata, perché stanno facendo tanti di quei casini che non immagini. Sì, ma io c'erano, vabbè, avevo ricevuto io una multa, che la targa era la mia, però la macchina non era, no, era la mia la macchina. Agito, la macchina da qua non si è mai mossa, quindi non può essere, con fotografia e tutto, con la, il numero di targa. E io sono andato dai vigili e ho detto, ascoltate, io ho ricevuto questa cosa qua, però la macchina non è la mia, la targa sembra quasi simile, però aspetta un attimino, hanno chiamato e hanno detto che non era la mia la cosa, la macchina, no? Da dove l'hanno tolta fuori questa cosa qua? Allora dice, autovelo, la macchina mia è qua in Sardegna, a Sassoli, non c'è mai andata lì, non sono mai andato da loro. Chietta. Sì, l'avevo già sentita questa cosa, l'avevano fatto anche un'altra o a più persone, cioè si mettono targhe finte, no? di altre province d'Italia e poi cercano il proprietario della vera targa, no? Tipo tu sei di Sassari, ti arriva, dice che eri a Napoli, che ha bruciato un semaforo, che eri in divieto o eccesso di velocità, capito? E i vigili di Sassari, sai cosa gli hanno detto a questa? Di non cercarmi più, che se no mettevo, partiva la denuncia da loro stessi, partiva, che non era una cosa che si doveva presentare quella, ma è così, non è giusta la targa, se io abito qua, io lì non ci sono mai andato, caspita. L'autovelo, sai chi ha mai visto l'autovelo lì? È un macello, Guarda, poi, caso strano, quello che è successo a Napoli, è una cosa incredibile, proprio il coso della truffa, ce l'hanno nel sangue, nel DNA, è una cosa più forte di loro, capito? Ma vabbè, Antonetti ancora. Break. Sono qua, molti break. Buonasera a todos, doppio rullo da questa parte. Buonasera Gianni, bene inteso. Ciao Antonello, ciao Marco e ciao Toro, non so se ci sia qualche altro perché ho acceso adesso e sinceramente non ho fatto ascolto, mea culpa. Settore. Io sì che ho fatto ascolto. Buonasera Gianni, mi hai sentito? Eravamo da un mese senza contatti. Andare avanti. Davvero, da ieri sera. Vieni come vedi. Avanti Marco. Ciao Gianni, ben entrato. Sì, c'ero io con Antonello, praticamente siamo tutta la sera in radio, dal pomeriggio, siamo tutta la sera in radio quasi, era entrato il pomeriggio solo Daniele e poi era entrato un'oretta fa Luca Del Monte, però poi non ha più ripreso. Vai Gianni. Se l'avessi saputo sarei andato da presto, tanto non avevo nulla da fare oggi, ma pensavo che non ci fosse nessuno, quindi non ho manco acceso presto. E non ti sei perso niente già, soliti discorsi, da così, per passare il tempo. Vabbè, ma la passione c'è, quindi un discorso tira l'altro. Ma Tore, cosa ti hanno tentato di truffarti? Ma arrivi da una multa. Vedi che era con l'autovelo, c'era una fotografia, però la macchina non era la mia, con una specie di targa fatta a così. Ti ha detto, ma guarda che sono buffonelli, insomma, e mi è andato a Napoli, certo, con l'autovelo, e che l'ha visto mai? E come ti è arrivata come posta o posta elettronica? Come cosa mi è arrivata? Niente, con l'indirizzo è tutto. C'è gente, ma gli sono andato a cercare lì. Certo. E poi la targa l'ha fatta a Fabiru, era. Ma è manco la targa proprio mia. E mi ha detto, ma cosa non è la macchina mia? Guardi la targa come è fatta. E questa è tutta una presa in giro. Lei c'ha bocca. Ha il telefono dei vigili urbani di Napoli. E la gente che era uno scherzo, no? Cercate di non farne più scherzi del genere, di non mandarne più cose così. Me l'ha messa a strada Eddie. Ascolta, il numero della targa corrispondeva. Corrispondeva, ma era fatto a Fabio il numero della targa. La macchina mia è tutta diversa da questa macchina. Cioè era un altro modello di macchina. È tutta diversa però, una opera era, la macchina mia è una Nissan Qashqai, chiatta, non so qui. Tutti i rigori si intende, riga. Il solo, poi non c'aveva né coso europeo né delle che d'altro, fatta proprio a mano. Ne cercano tutti, se trovano il polo paga ma stava strappata, se non era roba tua la strappavi, basta, non è macchina mia, chi c'è dopo. Ma ho già pensato di un vigile, se prima ha telefonato, era da voi, ha detto che era uno scherzo e me l'ha strappata lui. Hai telefonato a Napoli? Al comando di Napoli ha telefonato, gli ha detto che era uno scherzo, che stanno partendo, lettere così stanno partendo, se c'è bocca non è buono, se no, vado a stracciarli. E allora, come ti ho detto tu, io vado a adesso apriamo le truffe, già lo sai, come periodo del Covid, apriamo le truffe, poi cominciamo le... su Facebook le ragazze a chiedere i soldi, di che parlavano, dice vai su WhatsApp, una volta che sei arrivato su WhatsApp dice guarda fammi fare l'aggeggio di sotto, oppure guarda ti mando dei soldi eccetera eccetera, e di tutto di più sentivo io. Ma lì mi hanno detto, dice, ma dove, dice, fammi vedere quello che c'hai sotto, e tu in bagno mi ha detto, e tu perché scusa, detto, cosa cambia, detto, la bagno al salone, detto, cosa cambia, non cambia niente, no ma il bagno è meglio, detto, aspetta un attimino che, 2 minuti, allora ho chiesto a... era al bar che qua di fronte, ha detto Antonio, un amico mio che stava bevendo insieme a me, Antonio Cucco, vai in bagno, fagli la fottuta del pisello tuo, vai che così almeno sta zitta, non mi rompe le balle, gli ho detto. Ma se la mano, non ti preoccupare, a me mi conoscono tutti, io non sono di tipo che ti manda il pisello agli altri, gli ho detto. Quindi, almeno mi fa ridere e basta, una persona del genere, non mi può ricattare, quindi a un certo punto ha pigliato e ha chiuso il telefono, ha chiuso quella. Ma ancora non lo sapete, quelle che sono francesi sono tutte quelle che chiedono soldi, che ti dicono che hanno un bambino piccolo, che sono senza lavoro, che hanno difficoltà, se li puoi mandare i soldi che viene qua, trovarti, eccetera. Sono qua, oramai io le faccio parlare, poi dico, casco, io soldi non ne ho, se mi chiedete i soldi vado dall'altra parte e non mi cercano più. Oh, io per quello sono stato più furbo, ho messo il sito di Simona, hai capito? Quindi parlo a nome suo e non mi chiedono niente, non mi arriva nessuna chiamata, prima arrivavo lo cazzo. E per il Covid, ogni giorno ce n'era una, sono tutte della Costa d'Avorio, come si chiama, della parte del Sud America e cose del genere, capito? Mettono le e parlano in italiano. Poi ti dicono a un certo punto mandami soldi perché mi serve che mi carichi il cellulare, poi comincia se non mi carichi il cellulare minaccia, lo capite? Oppure caricami quello, caricami quell'altro, aiuto, e a un certo punto mi sono stufato. Ho preso, ho messo le... Io sono... In pratica con il nome di Simona, grazie a Dio non ho avuto più niente. Basta mettere il nome di nonna e hai fatto 13. Hai capito? Non ci metti né la foto tua né niente, ci metti la foto di qualche altra ragazza, stai tranquillo, non ti rompono più le palle. No, ma io oramai sono tutta l'antifora, no? Non mi fregano a me. Possono fregare a chi hanno fregato, ma a me non mi hanno mai fottito. Avanti, Marco. Sì, non basta internet, telefono, tutto, in ogni modo ci tentano. Soprattutto agli anziani già, con la storia di sono cosa, sono tuo nipote, tuo figlio, ho avuto un incidente, mi servono soldi per liquidare la persona o cos'era, ho perso il cellulare, tutte stronzate che poi possono essere verificate anche in 2 minuti e che certi anziani forse si fanno prendere dal panico e non capiscono più niente e ci cascano. Magari ci spaventano li fregano tutto loro, li chiedono che c'hanno in casa, io ma quando mai non c'ha dei sospetti. Invece quell'anziano è stato furbo, gli ha detto che gli dava tutto loro, che di mandare che qualcuno a prenderlo perché lui non si poteva muovere. Quando sono andati c'era la polizia nascosta dentro casa, quando gli ha consegnato loro l'hanno investigato. Il problema è che li tengono poco dentro. Lo sai, sovraffollamento, stanno 2 dì in carcere, poi li vedi di nuovo fuori, e il peggio è che magari si vendicano con l'anziano. E sai, certi sono abituati, entrano ed escono così come se andassero in bagno dalla galera, per loro non è un problema, è bello che se escono si potrebbero vendicare, soprattutto se l'anziano vive solo. È proprio per quello che ne approfittano, perché non li fanno nulla. Fanno scippi, fanno tutte queste cose per forza, perché poi le fanno uscire il giorno dopo. E poi ho visto quei video di Cicalone su YouTube, loro praticamente alla stazione di Roma, praticamente bloccano quei borseggiatori, tutte zingare, poi sono tutte zingare incinta, sono perennemente incinta le zingare, zingarelle giovani, anche 15 anni, e anche loro non fanno niente, a parte perché se sono incinta erano intoccabili quasi, ma anche i maschi, cioè vanno, li tirano le orecchie, li danno i giorni in carcere, però gli danno i domiciliari, ma nemmeno, o l'obbligo di firma, gli danno l'obbligo di firma, finita là la pena, e sono 2 ore dopo di nuovo a rubare nella metropolitana. Poi con una faccia a schiaffi, proprio che sanno di essere impuniti, è una cosa allucinante. Sì, il nostro lavoro è rubare. Ma a parte che la vita che fanno, cioè tutti i giorni buttati lì a cercare di gabbare la gente, poi lo sanno che ogni tanto possono pigliare anche colpi a seconda di chi li capita, che magari sono di passaggio, li gonfia di botte, un turista, quello sparisce poi. Sì, mi chiedo anche che qualità di vita abbiano, non è una bella vita anche campare così, contenta loro. Marco, io ho fatto 15 giorni a Roma, in 3 giorni ho visto uno scippo, una donna anziana che spaccava il vettore della macchina e rubava uno stereo, io ti parlo di quando sono andato 15 anni fa, dai, una 20 anni. Praticamente questa donna anziana ha spaccato il butto di una macchina, ha preso lo stereo e se l'ha messo sotto al cappotto. Un'altra storia sotto la metropolitana, che praticamente c'era questo mendicante chiedendo l'elemosina, è passata questa qua, le ha rubato tutta la cassetta con i soldi, è scappata, quello lì che gridava aiuto, aiuto al ladro, nessuno si metteva in mezzo, nessuno. Già, io quello, sì, rode, dentro rode, però mettiteli loro, magari lo vai a toccare, che adesso gli dai un calcio, uno schiaffo, quello finge di cadere, ti fa causa, il bello è che adesso ti fanno causa, questi sono intoccabili, perché sanno che non li puniscono, se per caso gli alzi le mani ti fanno causa e ti denunciano pure, è bello che i giudici gli danno ragione in tutto, come se rubare fosse una professione legittima e quindi tu stai danneggiando lui. Vabbè, l'Italia, sai come si dice, come ti si vede e si drattani, l'Italia sta finendo male, infatti, con questa immigrazione anche mezza clandestina, eccetera. Non ha pugno di ferro l'Italia, guarda la media degli Stati Uniti, vabbè, anche lì hanno immigrati clandestini, però ci vanno un po' più pesante quando trovano gente che delinque, molto più pesante, pure troppo, ma vabbè, vai Tore. Infatti è così, purtroppo non è un bene che sa niente, specialmente i rom, che sono degli delinquenti, che in arrivi dei zingari, che non puoi vedere più, ma com'è no, che hanno venuto i giorni, mosseggiatori, già sono tutti pura. Vabbè ragazzi, io vi saluto, anche devo vedere i bacini, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao, ciao Antonello, ciao Gianni, vabbè. Ma metto pure il nome. Ok, ciao. Ciao Tore, Marco. Ciao Tore, buona continuazione. Avanti Marco. Ciao Tore, buon proseguimento di serata, buon tutto e ci sentiamo. Vai Antonello, Antonello è impegnato. Tore, un'oretta ci sarà, forse anche più di un'oretta, eccetera. E comunque sempre poca roba già, mamma mia, proprio siamo i sopravvissuti della 27. Prima eravamo quattro gatti, adesso siamo due gatti. Vabbè, l'interessante è portarlo avanti. Poi arriveranno gli altri, visto che è arrivato quello di Caniga, quell'altro di Sorso, ogni tanto entrano, capisco che quelli. Però vabbè, io poco li sento, quello di Canica arriva almeno, quel risorso non arriva, la rotta del Alghero magari se ne sta per conto proprio, magari anche vanno a PMR, non lo so, io non li ho mai sentiti qua quelli di Alghero, francamente già. Manco io. Ti stavo dicendo, in piazza del 500, quella mamma, come sono dimenticato di dirtelo, c'era una moto che era attaccata, ci avevo passati con Liliana e c'era la moto attaccata alla ruota, al palo, su per una ruota, la ruota è davanti. Siamo riposati dopo mezz'ora e c'era solo la ruota attaccata, la moto non c'era più. Dove questo a Roma? In piazza del 500 a Roma, sì, dove c'è la stazione. Poi ho visto uno scippo a piedi, due ragazzi, uno da una parte del marciapiede e l'altro dall'altra parte. Questo ragazzo ha scippato questa cinese, ha lanciato la borsetta alla ragazza e sono scappati, però l'hanno perseguitati e li hanno acchiappati. E quella cinese ha detto no, lasciateli stare, dammi la borsetta e basta, lasciateli andare. È diventata una bella fogna, guarda le stazioni delle grandi città, Roma, Milano, anche Bergamo ho sentito, è una cosa da che non si crede, soprattutto questi, anche questi neri che vivono per terra così buttati, poi ci passi lì, perché stai passando nella zona sua ti minaccia con la bottiglia rotta, cioè roba da fantascienza, è una cosa irriconoscibile in Italia. A noi magari ci fanno un mazzo così se sbagliamo, se combiniamo qualcosa, e loro intoccabili. Purtroppo siamo nel Mediterraneo, quindi qua è un porto, è un coso aperto, capito? Non puoi fare muri come in America col Messico. E anche lì voglio vedere a fare migliaia di chilometri di muro, non so se l'abbiano mai finito, se l'abbiano completato. Trump è, di Trump era l'idea. Vabbè, guarda, io a Salvini non lo abito, ma da quel punto di vista c'è un po' ragione, con gli immigrati c'è un po' ragione, perché non esiste che facciano questi immigrati qua a fare casino, perché tanto più che casino non fanno, oltre che prendersi i soldi che gli dà lo Stato, che non sono italiani, gli dà lo stesso soldi, e c'è gente che sta morendo di fame, invece di aumentare la parcella che danno a questa gente povera dell'Italia, li danno a loro. Sì, su certe cose magari potevo dargli ragione, però Salvini è di quelli che poi quando vuol fare le leggi, tipo tu dice la strada, cosa, fanno cagate, cioè lo fanno male. Alla fine siamo tutti potenzialmente a rischio, anche la storia dell'alcol, vabbè, chi fuma le canne, per quanto magari ha fumato la canna la settimana prima o 10 giorni prima, uno dice che te ne frega a te, tanto non le fumi, e vabbè, però basta che ci siano tracce infinitesimali di principio attivo, però tu stai bene, non hai niente, sei in condizioni psicofisiche perfette, beh, sei punibile lo stesso. Allora quello non è una punizione perché stai guidando sotto l'effetto, è un'altra cosa, è lo stesso per la Beozia, un macello già. Sia mai che uno si beve quel mezzo bicchiere di birra in più o di vino, lo becca a un controllo, gli fanno un casino che non finisce più. Se formulate male le leggi, e poi lui è sempre per punire tutti, sembra che ce l'abbia col mondo, vuole punire tutti. Non lo so. E poi te l'ho detto, formulate male. Anche quella storia, sono inventate il femminicidio, mentre sai, tutti, qualsiasi persona davanti alla legge uguale, adesso vogliono fare una categoria a sé, anziché cioè, femminicidio, già capito, a parte che è incostituzionale, questo di fare categorie. Allora chiunque domani si alzano i trans e vogliono il transicidio, capito? Un reato specifico per gli omicidi dei trans, è un casino, non bastano le leggi, tutte accatastate una sull'altra, ne aggiungono altre, fanno integrazioni eccetera. Ma io te l'ho specificato che non sono d'accordo con Salvini, però su quello solo aveva ragione, tutto il resto basta, non esiste, ma su quello aveva ragione. Degli immigrati che vengono qua ci stanno strutturando e ci stanno per buttare fuori a noi. Adesso al corso non si può più passare perché è tutto pieno di questi lì. Non sono razzista, però loro, cavolo, stanno all'entrata dei vicoli a fare la sentinella e non puoi manco entrarci perché ti guardano male. Io quando sono andato alla messa di quel nostro amico, sono passato a Sassa di Bicchio perché per forza lì era tutto meno di niente, ti guardavano da notte in basso come passavo. Per carità, sì, perché controllano le zone o sono lì anche per lo spaccio, se vedono una faccia che non è di zona sospettano, dice questo magari è uno sbirro, per carità. Non è nel pericolo della pelle, è per il modo di fare che questi sono indesiderati, capito? Neri, rom, quello che è, cioè, vengono a sfruttare lo Stato italiano a tutti gli effetti e a gabbare chi possono gabbare, a compiere reati. E non l'hai visto a Brumotti cosa li fanno? Quelli di Siciliano Notizia, che li prendono a Sassi, a Cucci di Vetro, gli tirano le bottiglie rotte. Dove è questo? A Siciliano Notizia vanno praticamente nei punti di spaccio, praticamente hanno fatto vedere questa campagna, loro stanno al centro della campagna, le macchine si fermano al bordo della strada, scendono giù, i tipi li vanno incontro e gli danno la droga, gli danno i soldi e se ne vanno, capito? E hanno filmato tutto, capito? Quando stavano filmando li hanno presi a pietre, cucci di vetro, li hanno tirato, le bottiglie rotte. sì, sì, lo vedi anche, anche ti ho detto, nei filmati di Cicalone, magari sono gli stessi. E passi in quella zona, ti tirano il sasso o i colpi di bottiglia, poi quelli sdraiati a terra lì o vivono in tende, diciamo appena, delle specie di tende così messe male, sono perennemente ubriachi, stato di alterazione, alterazione psicofisica, certi sono già fuori di testa di, per conto loro, infatti la zona delle stazioni di, delle grandi città è un casino, da noi non siamo a quei livelli, però il corso sta peggiorando abbastanza, sta peggiorando abbastanza. Boh. Perché dall'inizio bisognava selezionare le persone. Quelli che vengono a vendere qua, nessuno dice nulla, ma quei, come si chiama, i nigeriani sono una razza proprio, per carità, di solito i senegalesi sono bravi. Sì, guarda, salvo rari casi, i senegalesi venivano qua per lavoro, venivano e vengono tuttora per lavoro, i nigeriani, droga, spaccio, quello che è, prostituzione, eccetera. Sembra che non conoscano altro, ma vedi, hanno subito angherie, hanno subito secoli di angherie dagli occidentali, cioè dagli europei, che hanno fatto del loro paese quello che volevano, quindi questo incattivirsi è anche per quello, un po' presumo. Ma io ti dirò una cosa, che ho letto l'articolo di questa signora che abita lì sotto il ponte, ha detto che la notte non vuole visto, c'è spaccio, prostituzione, sotto al ponte Rosè. Aspetta, già, ti sento un po' impastato, ho l'orecchio mio che non va più bene, però certe volte non sento bene, già ci ho avuto un calo d'udito, altro che. Ho letto che sotto il ponte di Rosello, la notte, c'è spaccio, prostituzione, di tutto di più. Ah, sotto, e da dove passano? Perché il cancello per arrivare tipo alla fontana di Rosello è chiuso, ci sono altri passaggi? Ah, boh, non lo so dove passano, magari saltano, però c'è un giro, perché una signora che abita lì ha detto che la notte non si può vivere, che si bisticciano, che c'è prostituzione, droga, di tutti, ogni tanto interviene la polizia. Saltano, perché non saltano dal ponte direttamente, dalla parte alta però? Ma per carità, oh, yeah. Che gente che ci siamo messi qua. E poi il bello che hanno il coraggio, dopo che fanno tutte queste cose, vanno anche che li danno i soldi da, dallo Stato, eccetera. Vanno anche a chiedere le voci, se non ne, ne dai, ti guardano male, capito? Infatti c'era una volta, sai, questi vicino all'ospedale, via San Pietro, o dov'era, o qualche market, che chiedeva un euro o qualcosa, spiccioli. Ho detto, non ti posso dare niente, gli ho detto. E lui, perché? Cioè, mi dovevo giustificare, secondo lui, dal fatto che non potessi dargli niente. E lì cosa vuoi fare? Certi sono grossi, se li mandi a cagare magari diventano anche maneschi. Perché l'ho messo simpatico da me? Ho detto, non ti posso dare niente. Lui, perché? Capito? Come se fossi tenuto a lasciargli l'obolo. Oh, yeah, vabbè, ma quello è il meno, ma l'elemosina mi dà relativamente fastidio. Il resto è che è un casino. È anche pur vero che se a volte vai da Eurospin, che so, Eurospin via Carlo Felice, entri, te ne trovi tre, uno piazzato all'ingresso, zona Carrelli, che come arrivi c'ha la mano tesa, l'altro che si fa una parte del parcheggio, che importuna chi sta scaricando la spesa, e l'altro dall'altra parte del parcheggio, no, c'è il parcheggio frontale e poi quello laterale. Ammazza, circondati siamo, se non ti assilla uno ti assilla l'altro, capito? Sì, ma infatti, ma quando sono insistenti, brutto, sì, che uno non insiste, vabbè, dici che non è e basta, e se ne va. Io lo dico in francese sempre, non mi parla già sessuale. Io a volte dico, no, ho pagato la carta di credito, non ho monete. Ma quelli sarebbero capaci di mettersi il POS. Prego, abbiamo anche il POS per i pagamenti. Hai visto che costano un poco, ormai 15 euro c'è il POS portatile, no? Tu passi la carta. Sarebbero capaci. ultimi. L'allucinante. Io lo dico scherzando, ma già rido se qualcuno magari un giorno lo dice, non ho spiccioli, io ho pagato con la carta di credito, abbiamo anche il POS, te lo fa vedere che mi per dire, no, 100, un euro. POS. Vabbè, Marco, che te devo dire? Tanto lei. Stavo preparando le zucchine per cena è stata per domani, altro che se no non avevo voglia di alzarsi a letto, ho dovuto fare cucinare io. Le preparate adesso le ho messo a cucinare, meno male. Questa volta a cena c'ho fettina insieme al cane. E poi Simona si sta mangiando le cose per il batte, cazzo, come piacciono a me. E come sta facendo? Ripiene? No, inverte, cos'è ripiene? Se zucchine inverte, ripiene, ci vuole tempo, ci vuole fare. Una volta le faceva mamma, erano veramente buone, ma pesanti però, cazzo. Puoi fare anche le cipolle, ma ripiene, sono ben buone. Io facevo anche le cipolle in forno, ma mi piacciono anche bollite fatte in salata, Antonio. Vabbè, io sai che io mi devo mangiare a un certo punto, perché se no non è che gli va tutto bene, come si dice, no? Ci sono giorni che voleva mangiare anche a mezzo, alle 11 mezzo, mezzanotte e mezzo, figurati tu, ci sono giorni invece che mangia di meno. Sta mangiando il cracker, poi voglio comprare il coso, il formaggio di quello buono, quindi figurati tu, che la salva babbola, poi dolci, mi piacciono parecchio. Calma, ma anche Luca c'è, Luca. Sono qua, ciao, poco fa, io mi sto ascoltando. Ciao Luca. Ciao. No, non ti ho sentito io poco fa, ma forse non ascolto. No, tu non c'eri, ma poco fa, verso le 5 e mezza, sì. Ah, ho capito. No, io quello al telefono, in quei momenti lì. Tanto comprendi. Io sono stordito veramente, siamo tutta la sera in radio già, con l'Antonello, poi vabbè ci siamo sentati giusto mezz'oretta, ma quando troppo quando niente, poi siamo un mese che non ci sentiamo più. E vabbè dai, già sarà, andiamo bene, non si può far sempre le stesse cose. No, ma non dico io, Antonelli, certe volte io non ci sentivo per mesi, poi certe volte ore in radio. Ah, io? Lo so, sai che io ho quel problema di Simona, quindi non è che posso stare tutti i giorni a baracchino. Poi, a parte quello, carità, purtroppo è così. E vabbè, anche oggi quello che devo fare l'avevo fatto di mattina, dal medico non devo andare a fare la spesa nemmeno, insomma è stata una... Certe volte già le serate sono lunghe, estenuanti, non passano mai, se non hai nulla a fare è brutto. Ma sta uscirtene invece che state in casa, vabbè che tu c'è tua madre. No, ma se ho necessità già esco, però certe volte esco quando ho uno scopo, che devo andare in qualche negozio a vedere qualcosa, eccetera. Bien, signori, quasi, sono le 8, però già tu il cane devi portare e io chiuderei per me, dai che sono veramente stanco. Sì, io chiudo adesso che devo portare, vi saluto tutti, buona continuazione se restate, se no buona carica, ciao a tutti, dopo ciao Gianni, dai, sentiamo magari un giorno che entri prima, facciamo la serata. Ciao Luca, Antonello e tutti gli ascoltoni. Vai Antonello. Ciao, buon pomeriggio, mi sta scrivendo. E ci sentiamo, dai, non c'è problema per quello. Cosa c'è? Buonanotte. Cosa vuoi, uscire? Adesso ti porta papà adesso. Ti porta a fare un giretto. arrivi e ti combattere là. E così me lo fai la passeggiata, ecco guinzaglio fai, e ti porti a Simona, la porti a passeggio, in nave la porti. Oh, Antonella, nel delirio non ci ho capito niente, non ho capito cosa stavi dicendo. Parlavo con Tommy, mi stava guardando, voglio dire che, cioè, la testa è girata a sinistra, no? Come le chiunque, come per dire, adesso questo 4-4 e mezzo siamo, mi porta giù, mi porta. E poi mi fa fare un giro, mi fa fare. Ah. Ok, vabbè Antonella, chiudo anch'io. Di nuovo, ci sentiamo. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, ci sentiamo domani là, ok.